get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Benvenute alla 62esima trasmissione del ciclo È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione importante questa, la diretta appena prima dell'ormai famigerato World Pride, la replica appena dopo, e quindi speriamo ci perdonerete qualche riferimento che ormai sarà fuori contesto. Ma ora sentiamo Lucilla che ci leggerà un contributo di Angela che è tutto un programma, A cena con la Montano. Qualche sera fa, al bar del Buon Pastore, ho rivisto la Montano. Era seduta in ottima compagnia al tavolo vicino al mio. Ho subito pensato, ecco, anche stasera ha lasciato il marito da solo e si è sacrificata a venire a cena qui per essere più vicina all'oscuro mondo delle lesbiche. La sera stessa, allora, ho riletto alcune pagine dell'ormai famoso libro inchiesta e la notte non rimasero divise, che per me ormai rappresenta una vera Bibbia dell'humor. Allora mi sono detta, perché essere egoista? È bene condividere con le altre ciò che nella mia mente ormai definisco le perle della Montano. Dunque ascoltate e sappiate che ognuna di noi, senza la mia mediazione, può la sera risollevare lo spirito leggendo alla fonte l'intera opera, che se affrontata con spirito umoristico può davvero rilassarci dopo l'ennesima giornata passata in questo non facile mondo etero in cui, nostro malgrado, viviamo. Riprendo dunque l'analisi fatta sul nostro mondo dall'intrepida psicologa da pagina 64 e precisamente dal paragrafetto intitolato L'abbigliamento. Occorre comunque una premessa. Dato che è difficile riconoscerci, e cioè capire se una donna è lesbica o non lo è, la Montano ha osservato all'interno dei nostri locali, dove ha potuto individuarci con ragionevole certezza, i canoni stilistici che seguono. Se almeno ci avesse preavvertito, ci saremmo rese più presentabili, invece, così veniamo descritte. È fuori discussione che le donne che frequentano locali per sole donne amino vestirsi prevalentemente con abiti comodi e di taglio maschile. Portano capelli corti, spesso non curati, non indossano gioielli, né monili, accessori o borse. Insomma, siamo la rovina degli esercizi che vendono accessori. Ma da tutto ciò la Montano coglie un ulteriore elemento psicologico che a noi profane era sfuggito e scrive. I locali, infatti, sono frequentati essenzialmente da quelle lesbiche che si sentono più mascoline che femminili e che rivendicano di essere nate così. Quindi ne deduco che rivendichiamo di essere nate con l'odio verso qualsiasi forma di accessorio, dalle borse ai gioielli. Ma no, forse ho equivocato. E infatti, subito dopo la psicologa mi rivela che, per loro, indossare i pantaloni significa rinforzare il concetto di maschio, forte e sicuro, mentre all'idea di femminilità associano attributi quali passività, inferiorità e mancanza di carattere. Penso allora, Dio, ci ha confuso con i camionisti. E invece no, perché traccia subito dopo l'identikit psicologico della Predatory Butch, che così denominante sembrano essere più che delle donne degli squali della specie più sanguinaria e afferma che tendono come alcuni uomini a sedurre donne naif in modo aggressivo e ostentato e sono quelle che le donne eterosessuali usano per le loro esperienze e le donne lesbiche per avventure occasionali. Infatti, una volta fatti salvi gli uomini, perché non tutti si comportano in modo così rude e aggressivo, le predatori butch sono dunque le navi scuola delle etero, le usa e getta delle lesbiche e forse, sotto sotto, il desiderio segreto della Montano, la quale, e credo ancora invano, tenta da anni di incontrarne almeno una per essere finalmente avviata a forme di conoscenza più ravvicinate. Forse non ha tutti i torti, dopo tanta teoria ci vorrebbe al fine un po' di pratica. Ma torniamo al defilé psicologico, perché ora è il turno delle altre, e cioè le altre lesbiche, quelle che si percepiscono come donne e che ricercano un'altra donna con la quale avere un rapporto stabile e duraturo, si vestono in modo femminile, casual o ricercato, si truccano, indossano gioielli e frequentano molto raramente locali per sole donne. Per scrivere questa parte del libro, immagino che la Montano abbia dovuto faticare parecchio per raccogliere i dati. La immagino mentre al lavoro nei nostri locali, dopo avere per l'ennesima volta abbandonato il marito a casa, prendere appunti su di un'apposita griglia, ordinatamente divisa tra butch e femme, mentre respinge l'ennesimo attacco di un gruppo di fameliche predatori butch, riesce al fine a conteggiare, dividere, catalogare e analizzare dati di notevole complessità logico-statistica che sottendono al ragionamento appena descritto. Ma proseguendo nella lettura del libro, a pagina 136, nel paragrafetto intitolato La seduzione, noto qualche discrasia con quanto faticosamente elaborato nelle pagine 64 e 65. Qui infatti la Montano afferma: le manovre di seduzione tra due donne lesbiche sono ovviamente più nascoste, perché imbrigliate sempre nel meccanismo che vieta alle donne omosessuali la completa espressione di sé, dei propri desideri e voglie. Sono gli effetti della omofobia che penetrano nella loro vita quotidiana. Sono state educate a non poter esprimere attrazione, attenzione o sensualità per un'altra donna. Allora ripenso, ma non aveva affermato che le predatori butch seducono senza dare troppo per il sottile qualsiasi donna in modo aggressivo ed ostentato, ed è per questa ragione che sono temute da tutte lesbiche ed etero? E poi, se come lei ha potuto verificare e diagnosticare frequentandoci, non riusciamo granché bene a corteggiarci, come faremo ad accoppiarci? Talvolta. Credo che per la Montano i bambini nascono ancora sotto i cavoli. Bene, continuo la lettura di pagina 136, i luoghi in cui le lesbiche cercano di sedurre un'altra donna. Anche se in questa maniera non del tutto esplicita, sono soprattutto i locali gay in cui più frequentemente si incontrano. Ora, prima di proseguire, vorrei che qualcuna in Italia o dall'estero mi spiegasse come si può sedurre un'altra donna in modo implicito, visto che esplicitamente la gran parte di noi, colpita da omofobia introiettata, non riesce proprio a farlo. Sarebbe come dire che i nostri metodi di corteggiamento sono improntati ad un certo mutismo elettivo. Nei casi più gravi poi si potrebbe ipotizzare perfino un autismo seduttivo o limitarci, in mancanza d'altro, ad autoseduzione. Ma decido di continuare nella lettura di pagina 136, dove la Montano afferma: negli altri luoghi della vita quotidiana è estremamente raro che una donna lesbica approcci una donna che le piace. Spesso si accontenterà di rimanerle vicino come amica e non si spingerà quasi mai ad un approccio di tipo sessuale. Alcune di noi si comporterebbero quindi come una sorta di angelo custode dell'amata, come appreso dalle migliori tradizioni cavalleresche o monacali, ma ciò credo che contrasta non solo con quanto notoriamente accade persino nei monasteri, ma soprattutto con la curiosità sessuale delle etero che, per esperienza vissuta, quando sanno che sei lesbica ti danno sistematicamente la caccia. Ma consentitemi, ancora più bizzarra è la conclusione del citato paragrafetto, ove l'arguta psicologa ci indica la via per rompere gli indugi e librarci al fine in innumerevoli corteggiamenti senza alcun imbarazzo. È nel cyborg spazio il luogo della nostra libertà. Infatti, secondo la Montano, la rete telematica permette di raggiungere ed eventualmente sedurre lesbiche in tutto il mondo in tempo reale. E ora un dubbio mi nasce, credo legittimamente: non è forse anche questa un'altra delle fantasie segrete della Montano? Come sottofondo sul pezzo di Angela abbiamo sentito la bravissima Michelle De Grosillo, mentre per il nostro appuntamento con la musica lesbica indipendente oggi vi proponiamo le Subway con Knowledge. Appuntamenti. Il World Pride è ed è stato un grande evento culturale antagonista in Italia. Come Onda Rossa, che il 1 giugno gli ha dedicato un'intera giornata della sua festa di sottoscrizione in diretta da Forte Prenestino, anche Radio Popolare di Milano l'ha capito e dal 27 giugno al 7 luglio ha dedicato ogni giorno mezz'ora di programmazione alla Festa Mondiale dell'Orgoglio Omosessuale, concludendo l'8 luglio con una diretta di ben 5 ore a partire dalle 14.30. D'altra parte è dal 1980 che Radio Popolare trasmette settimanalmente la trasmissione gay, l'altro martedì. Oggi, martedì 4 luglio alle 21, presso l'Hotel Cicerone di Roma, è stato presentato il volume Proposizioni, interventi alla prima università gay e lesbica d'estate, che raccoglie gli interventi della prima sessione de l'UGLE, le due edizioni tenutesi a Livorno e Pisa di confronto tra diversi saperi gay e lesbici, dove sono stati discussi alcuni tra i più significativi contributi elaborati in Italia in questi anni. Nella stessa serata è stato proposto di costituire una rete di collegamento che ponga in relazione tutte e tutti coloro che, a partire anche da situazioni molto diverse, siano interessate e interessati a sviluppare attività di elaborazione, riflessione e confronto su tematiche gay, lesbiche, transessuali, transgender e queer. Per informazioni e adesioni, liborg@unifi.it. E in libreria il suo sito www.marea.it, il secondo numero del 2000 della rivista Marea. Donne, ormeggi, rotte, approdi. Sul tema ecofemministe, chi sono mai costoro, vengono presentate interviste con Vandana Shiva, Carol Adams, Sandra Ruth e tutti i siti ecofemministi della rete. Come dice la redattrice Monica Lanfranco, ecologia e femminismi sono filoni di pensiero, e talvolta anche politiche, che spesso si sono intrecciati, non senza qualche ambiguità, specialmente quando la natura è stata associata strumentalmente al femminile per autorizzare operazioni socioculturali solitamente regressive. Non senza fatica, perché nella società dei consumi, chi propone stili di vita alternativi viene spesso deriso e relegato tra le minoranze, magari pittoresche, ma prive di autorevolezza. Marea vi propone pagine che possono fare riflettere circa uno sguardo divergente verso il mondo che ci circonda. In Orca abbiamo tradotto il pensiero di studiose ecofemministe, quali ad esempio Vandana Shiva, Carol Adams, Sandra Ruth. Molto approfondite anche le pagine di Medusa, con interventi tra le altre di Adriana Cavarero e Anna Scialabba, con le quali, senza pensare di esaurire l'argomento, abbiamo cercato di fornire a chi legge alcune informazioni anche tecniche per districarsi tra biotecnologie, fecondazione assistita, clonazione e i conseguenti problemi etici che ne derivano. Date un'occhiata anche in conchiglie, dove c'è una ricognizione su cosa c'è da leggere sull'argomento. L'ecofemminismo vi sembra fantascienza? Ma lo sapete che l'emergenza nel secolo che sta iniziando sarà proprio la mancanza e la conseguente trasformazione in denaro della banalissima acqua? Se non trovate Marea, ricordate alla vostra libreria che la rivista è distribuita da CDA. La redazione di Marea è in via Ruspoli 1/5, 16129 Genova. Telefono 010 54 36 84. Email mochena@village.it. Si è conseguita la Gaia Mater Studiorum. La Gaia Mater Studiorum, l'associazione di studenti gay e lesbiche dell'Università di Bologna, che si riunisce in Via delle Belle Arti 19A il lunedì sera dalle 22 alle 24. Per informazioni o adesioni potete scrivere in Via delle Belle Arti o alla casella postale 319, fermo posta centrale 40100 Bologna. L'indirizzo di email è sarasisignoretti@hotmail.com. Un'altra notizia adesso che vi diamo è che a Roma, dal 4 al 9 luglio alle ore 21, presso il Teatro Belli di Roma, in piazza Santa Pollonia 11A, ci sarà una rappresentazione teatrale che si intitola Peg e Gracie, Los Lesbos, interpretato e diretto da Paola Sambo e Gloria Sapio. Il disco ufficiale del World Gay Pride 2000, prodotto dalla High Music in sinergia con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, e, come forse sapete, Nessuno mi può giudicare, inciso rivisitando il celebre brano di Caterina Caselli, interpretato da alcuni esponenti della scena musicale italiana e non. Marco Messina dei 99 Posse, Vladimir Luxuria, Luca Cucchetti e Russell, Luca Silenzi, Elvis Carpinelli, Ermanno Castriota e Reverse hanno tutti interpretato liberamente il brano in diverse versioni, che riescono a coprire l'intero universo della musica leggera, dalla techno al rock, dal drum and bass all'art rock, dall'house al pop. Quello che forse non sapete è che la produzione di Nessuno mi può giudicare sostiene un progetto di beneficenza, devolvendo parte dei proventi ricavati dalla vendita del disco per il finanziamento di borse di studio in epidemiologia dell'infezione da HIV. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87-900 di Radio Onda Rossa, in collaborazione con il Martedì Femminista Autogestito. Potete contattarci al telefono fax segreteria telefonica 06 68 64 201 o tramite l'email clrbp@hotmail.com. Il CLR si riunisce ogni mercoledì dalle 20.30 presso il Centro Femminista Separatista del Buon Pastore di Roma, in via San Francesco di Sales 1B. Ringraziando Federica Tuzzi che ci ha segnalato il luogo, Elisabetta Torresin che ci ha fornito alcuni contatti per i concerti musicali ed i ragazzi e le ragazze del Centro Sociale Biancaleone, tutto o quasi è già pronto per il grande evento lesbico con ingresso riservato solo alle donne, When Night is Falling, che, sponsorizzato in parte dalla Virgin Airlines, si terrà in via Levanna 11 presso il Biancaleone dal 6 all'8 luglio a partire dalle ore 18. Eccovi il programma finale della manifestazione organizzata dal Coordinamento Lesbiche Romane, dall'Associazione Culturale Lesbica Separatista Visibilia di Bologna e dal Pianeta Viola di Brescia. E partiamo con giovedì 6 luglio, dalle ore 18 alle ore 24, ci sarà al primo piano del Centro Sociale Brancaleone una mostra di arti visive, diapositive, stand ed altro. Alle ore 19 il brindisi inaugurale. Dalle ore 20 parte il cinema. Only the Brave di Anna Cockins dell'Australia 94. La Acera de Enfrente di Panchita Spagna 94. La Fête de Mer di Stappen Francia 98. Alle ore 22 nella zona Capannone c'è un concerto live pop rock con Le Vertigini, che è un gruppo italiano, e dalle 23.30 in poi When Night is Falling Opening Night, festa disco d'apertura con la DJ Valli. Venerdì 7 luglio alle ore 18 fino alla fine della manifestazione, sempre al primo piano, ancora la mostra di arti visive con tutti gli stands di musica, libri e tante altre cose. Alle 19, al capannone del Centro Sociale Biancaleone, la proiezione del video Katie Lang, Live in Sydney. Alle 20, il cinema con Io la peor de todas, di Maria Luisa Bember, Argentina-Francia, 1990. Alle 22, ancora cinema, con Skip, di Kazuko Ukida, Giappone 1996, Idol, di Anna Perl e la Schroeder, di Germania del 98, Sortie de Ben di Florence Hernand, Francia 1994, La De Fool di Severin Lebout dalla Svizzera del 95, Bloody Well Done di Nathalie Persilier, Germania 1994, Corazon Sangrante di Ximena Cuevas, Messico 1993, My Feminism di Dominique Cardonal e Louise Colbert, Canada 97, e infine Secrets di Della Cullen e della Myland, Gran Bretagna 93. Alle 22, presso il Capannone, due concerti live, le Tribad, che fanno musica rap e techno, e dalla Francia, e il gruppo techno rock delle Ventra dall'Italia. E arriviamo alla serata finale, la serata conclusiva, che partirà dalle 20 perché prima saremo tutte quante alla marcia, al Pride. Ovviamente vi invitiamo dietro lo striscione delle lesbiche separatiste e comunque lo striscione delle donne, nello spezzone delle donne. Allora, dalle ore 20, sempre al primo piano, avremo ancora la mostra con le arti visive, diapositive, stand e quant'altro. Alle 21 nello spazio cinema ci saranno vari film, la pronuncia avrete sentito che è migliore quella di Deborah rispetto alla mia, comunque Grove on the Stanley Knife della Krishnan e della Kotler, Gran Bretagna 97. Questo mi riesce bene perché è Rapido Finale con Passione di Luchi Massa, Italia 99, lo leggo bene. E poi c'è la Eldiner der Liebe, Nathalie Persilier e Lili Bresilli, Germania 96. E Damned If You Don't, degli USA 97, non posso leggere, ve lo giuro, non posso leggere l'autrice. Poi dalle ore 23 al Capannone c'è sempre un concerto live, ed è delle Gertrude dalla Gran Bretagna che fanno Indian Punk come genere, e alle 24 la serata, cioè la festa conclusiva, ed è When Night is Falling, Closing Night, festa disco di chiusura sempre con la DJ Valley. Alle 4, se sarete sempre numerose e se noi riusciamo a trovare tutto, avrete anche cornetti caldi. Quindi intervenite numerose, noi vi attendiamo. Ricordiamo al Centro Sociale Biancaleone in via Levanna 11, che è una traversa della Nomentana. Potete prendere da Piazza della Repubblica o dalla stazione Termini il 6090 che vi fermerà proprio lì. Ci sono anche notturni, venite! Because of you, I smoke all day. Because of you, I drink my blues away. Because of you, I can't sleep at night. Because of you, I lost my appetite. What should I do about you? Because of you, I have to stutter my words. Because of you, oh, my tummy hurts. Because of you. Il pezzo che avete sentito è delle Sapphire e si intitola Because of You. Recentemente i giornali si sono occupati di quello che è stato definito lo scandalo di Villaggina, nota clinica romana di proprietà degli Spallone, famosi perché il capostipite, ancora vivente, è stato il medico personale di Palmiro Togliatti. L'inchiesta è nata da una crisi di coscienza di una segretaria che ha denunciato le condizioni in cui avvenivano gli aborti clandestini, che sembra fossero la principale fonte di guadagno della clinica. I giornali hanno riportato alcune dichiarazioni della donna, Aborti effettuati oltre il termine del terzo mese di gravidanza stabilito dalla legge, donne arrivate con semplici ritardi mestruali a cui comunque sarebbe stato praticato un inutile aborto, altre che, sebbene in preda a tardivo ripensamento, sarebbero state maltrattate in sala operatoria e quindi comunque costrette ad eseguire l'intervento. Naturalmente speriamo che l'inchiesta in corso faccia piena giustizia. Noi ovviamente esprimiamo solidarietà a quante, ancora oggi, sono costrette a ricorrere all'aborto clandestino, ma vorremmo anche fare il ragionamento politico. La legge che regola le interruzioni di gravidanza è applicata poco e male, e siamo stupite dal silenzio di una serie di soggetti che pure avrebbero dovuto chiedere conto di come la legge è applicata a Roma e non solo essere spettatrici di uno scandalo che sembra nascere da sé, come esempio di mala sanità, mentre è stato causato dal disservizio delle strutture pubbliche. Ecco che allora la realtà appare per quello che è. Si lascia mano libera, anzi libero mercato, ai privati che, a loro modo, sopperiscono a ciò che nelle strutture pubbliche non sempre è possibile ottenere. Tutto ciò, a Roma, accade nella totale indifferenza dei forum, gruppi, associazioni, donne di partito e non, che sembrano occupate in tutt'altre faccende. Vorremmo ricordare che le lesbiche, storicamente, hanno dato un vero contributo in termini di lotta, anche per la questione dell'aborto, tema che a prima vista potrebbe sembrare lontano da noi. Siamo invece ben consapevoli che è proprio sul controllo del corpo delle donne che si esercita il potere dei maschi. E allora l'obiettivo della destra è chiaro. Non sono riusciti a cancellare la legge sull'aborto e ne boicottano attivamente l'applicazione. Si battono in Parlamento per far riconoscere i diritti del feto, mentre è in discussione la legge sulla procreazione assistita e con ciò vorrebbero ridurre le donne a mero contenitore del concepito. Ai difensori in astratto della vita ribadiamo che non ci può essere nessuna realizzazione della vita stessa se si prescinde dalla volontà e dal desiderio, in primo luogo delle donne, a essere anche madri. Vorremmo invece che tutte le donne riprendessero la parola e, se necessario, la lotta per far applicare pienamente la legge 194, perché più nessuna debba essere costretta all'ingiuria dell'aborto clandestino. To Lady Light, she wraps me in her black veils, wraps me tight. Her velvet touch on my weary eyes, kisses softly, wind sighs. Lady Night in her grandeur, blonde jewels of light, flirting with her half moon, she shields. Kiss your lowered eyes and bid you rest. She takes me to her tummy, I clutch her warmth. I know that I am falling. She delves into my mind, brings out my darkest thoughts to keep her dark from dawn. E dopo Noah con Lady Night sentiamo Lucilla cosa ci racconta. Allora, una notiziola dal Corriere della Sera, La notiziola è di martedì 20 giugno 2000. Ora sarà anche un po' datata, ma non importa. Il Corriere della Sera non ci ha offerto grandi spazi, anche in questa fase, in questo periodo in cui ci sono state grandi bagarre intorno al World Pride. Sì, notizie, ma non eccessive. Però questa è carina, è tra le notizie, è piccolina, è da leccarsi le orecchie, come si dice. L'ex ministro Lombardi, niente omosessuale tra le guide scout. Omosessuali e boy scout? Mai. Anzi, il buonsenso, secondo le parole dell'ex ministro Lombardi, dovrebbe portarci a pensare al bene dei nostri figli che non possono essere affidati a dei gay. Quindi questa è l'opinione dell'ex ministro della pubblica istruzione, ex presidente peraltro della GESCI. Insorge il mondo gay. Lombardi ci confonde con i pedofili, tuona Sergio Lo Giudice, il presidente di Arcigay. E noi a questo punto non possiamo che essere concordi e dobbiamo dire che in un periodo di questo genere ci fa piacere che si riconosca ancora una volta anche in organizzazioni che dicono come i Boy Scout di insegnare la tolleranza, di dare spazio alle diversità, eccetera, eccetera, che vengano fuori di queste belle notizie sulla tolleranza. E dalla Spagna, Rosana con El Talismán. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas cuando una noche de ambos desesperados caigamos juntos enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú, el talismán de tu piel me chiva que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro. Tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces. Seremos uno. E adesso qualche poesia di Patrizia Cavalli dal suo libro L'io singolare, proprio mio, edito da Einaudi nel 1992. Non dipende da me, riconosco che non dipende da me. Dipendesse da me, sarei infelice, completa dipendenza. A voce dolce, tu mi metti a letto, tu vuoi che io dorma. Per avviarmi i sogni, mi elenchi le infinite meraviglie di come tu saresti se tu fossi. Tu te ne vai, e mentre te ne vai mi dici, mi dispiace. Pensi così di darmi un po' di pace? Mi prometti un pensiero costante, struggente, quando sei sola e anche tra la gente. Mi dici, amore mio, mi mancherai, e in questi giorni tu cosa farai? Io ti rispondo, ti avrò sempre presente, avrò il pensiero pieno del tuo niente. Quel ciondolare che ricerca i baci, che prolunga le visite e mai le chiude, e poi si estenua nell'inventare scuse, la mia specialità, la mia specialità. The evening breeze caressed the trees tenderly. The trembling trees embrace the breeze tenderly. Then you and I came wandering by, and lost in a sigh were we. The shore was kissed by sea and mist tenderly. I can't forget how two hearts met breathlessly. Your arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Then you and I came wandering by and lost in a sigh. Were we? A tutte ciao, alla prossima settimana. E naturalmente l'appuntamento è il 6, il 7 e l'8 al centro Brancaleone in Via Levanna, e l'8 in particolar modo alla manifestazione dietro lo striscione delle lesbiche separatiste. Siamo Deborah e Lucilla e vi salutiamo con questo bellissimo brano di Billie Holiday, di cui appunto il nome è meglio che lo dice Deborah. Arms open wide and close me inside. You took my lips, you took my love so tenderly. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato